Se non vuoi rimanere da solo, metti da parte l'orgoglio. In amore non serve fingere, ti rende solo più fragile. Se non vuoi fare brutta figura, impara a chiedere scusa e a non farti problemi. Si nasce e si muore senza pensieri, e quanto è bello vivere. Ma io non voglio crescere, voglio restare così, sospeso a sognare per sempre. Prendimi per mano e ti amerò un'ora, se poi lo vorrai ti amerò ancora. Prendimi per mano e tutto avrà senso, te lo prometto, sarà perfetto. Prendimi per mano, lasciarmi mai. Se tu ci tieni davvero, ama adesso e in ogni momento, e allora niente sarà più perfetto di voi. Tu non vuoi essere uno dei tanti, tu vuoi vivere i piani più alti, ma poi cadi, e cadi proprio qua, dove è bello vivere, e nessuno vuole crescere, dove è bello restare, sospesi a sognare per sempre. Prendimi per mano e ti amerò un'ora, se poi lo vorrai ti amerò ancora. Prendimi per mano e tutto avrà senso, te lo prometto, sarà perfetto. Prendimi per mano, che non ho detto mai, tutte le volte che sono andato via. Vorrei tornare indietro soltanto un momento, prenderti per mano e tenerti accanto a me.